prossimo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube. Ormai siamo sempre insieme, il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio, ancora un appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo, il perdibile, questa settimana secondo me anche il perdibilissimo di tutta la settimana, tra TV, social TV, web TV, tutto quello che ha fatto scatenare il mondo del web, che nemmeno in questo sesto appuntamento con Radio Tube. Già sei? Non è sette? No, sesto appuntamento con Radio. Io ho già perso. Bel numero. Non lo chiameremo popolo della rete, promesso. Il popolo della rete, però, può scriverci. Può scriverci ai nostri account di Twitter, @MartaCagnola e @DiBellasio. Oppure potete usare questo hashtag bellissimo, cancelletto Radio Tube. Noi arriviamo nel pomeriggio, tardo pomeriggio, un nostro amico di Twitter che non fa il discografico, Chiocciola Kikuz ha definito Radio Tube un perfetto preaperitivo. Mi piace il preaperitivo. Ah, e noi dopo andiamo all'aperitivo. Accettiamo inviti? Accettiamo inviti, basta. Sì, basta recapitarceli via Twitter, tanto noi siamo sempre anche a disposizione. Anche separatamente o andiamo tutte e due? Ma no, andiamo in squadra, dai. Andiamo in squadra. Perché noi andiamo d'accordo, non facciamo come quelli della televisione. Anche se comunque le liti della televisione stanno diventando liti molto romantiche. Che belle. C'è stata una lite questa settimana che ci ha particolarmente appassionato. E io te l'avevo detto che ci avrebbe dato grandi soddisfazioni. Tu già Aldo Nazionale. Sì, già nella scorsa puntata di Radio Tube avevi detto l'ospite perfetto. E anche questa settimana Aldo Busi ci ha regalato una chicca, ospite di Corrado Formigli. Il conduttore che tiene sempre le braccia in una posizione stranissima, con questo foglio, è da studiare il linguaggio del corpo di Formigli. La prossemica di Formigli, prossemica, sei partita proprio impegnativa ma senti qua cosa ha detto Aldo Busi a Maria Stella Gelmini. Vediamo. Non ce la caviamo con la legge uguale per tutti, perché poi vediamo che non è così. La legge uguale per tutti, l'articolo 3 è fondamentale, lei non può dire queste cose, è condannato in sentenza definitiva. Se ne vada fuori dai coglioni al più presto possibile, e con lui tutti i suoi coriferi. Via, via, via. Solo così l'Italia ha qualche speranza di rinascere. Non con questi, non con questi discorsi contro la Costituzione. Calma, calma. Lei non può calma. Andare contro la Costituzione. Non la ascolto più. Calma. Busi, calma. Quindi laddove non attira l'attenzione non è contento. Io non sono un'eroina barocca del lago di Garda. Ma rispetti gli avversari politici e stia sereno. Che cosa meravigliosa, l'eroina barocca del lago di Garda. Però vedi che alla fine ci dividiamo sempre. A me ha colpito corifei o corifei, chissà come si dirà esattamente. Anche io mi sono un po' interrogata sull'accento. Perché lui lo dice in modo un po' strano. No, però ha sempre ragione lui. E l'eroina? Tu sei un'eroina barocca. Eroina barocca della Brianza. Io della Brianza. È una delle frasi, secondo me, della settimana, insieme all'epiteto che Guillermo Mariotto, uno dei giudici di Ballando con le Stelle, salutiamo sempre Sandro Maier, lo salutiamo in ogni puntata. Che cosa ha proferito il nostro Guillermo Mariotto di fronte a una sfuriata incredibile di Anna Oxa nei confronti dei giudici? Lo so che chi non ha seguito Ballando con le Stelle può provare dell'orrore al pensiero di Anna Oxa che si arrabbia con i giudici di Ballando con le Stelle, ma sentiamo questa frase assolutamente, secondo me, finale della situazione della televisione italiana. Dall'altra settimana che è venuto fuori un putiferio su internet. Allora io mi sento in mezzo, perché in pratica quando finisce la trasmissione io torno nel mio mondo, che non è il mondo dello spettacolo, ma è il mondo della danza. Allora, diciamo che io fino adesso ho sempre apprezzato quelle che ha fatto Samuel e Anna, perché in pratica è una specie di show dance con un messaggio. Io devo toccare il discorso di tecnica, ok? Tra l'altro Le scarpe di Anna, scusate, Anna sta chiedendo le sue scarpe. Posso avere le mie scarpe? Sì, sì, sì. I costumi, sì, per favore. È Anna Oxa, non è mica Giovanna d'Arco. Osannare, urlare, mettete suoni invece. È Anna Oxa, non è mica Giovanna d'Arco. Beh, è straordinario. Non è male. Internet, hai visto quanto ha paura la gente? Io esco di qui e torno alla mia vita, ma in realtà stava dicendo esco di qui, mi attacco subito a Twitter e vedo che mi criticano. È esattamente fa così paura. Perché Carolyn Smith, che ha un suo account molto internet attivo, yes, internet, beh, beata lei che parla così bene l'inglese essendo mother tongue, native speaking, Carolyn Smith 51, effettivamente lei probabilmente alla fine della trasmissione si trova migliaia di messaggi, perché non hai detto questo, perché non hai detto quest'altro. È un aspetto interessante. Anche noi migliaia di messaggi anche ci noi troviamo alla fine della trasmissione. Chiocciola Marta Cagnola, chiocciola Di Bellasio, hashtag RadioTube. Abbiamo ascoltato l'eroina barocca del Lago di Garda, Anna Oxa, che non è Giovanna d'Arco. Ma come balla Anna Oxa? È tutto a modo suo, però è arte e quindi non le si può dire niente. Balla decisamente a modo suo. Vabbè, insomma, a modo suo. Come si dice quando un tipo, diciamo, è un tipo, è esattamente così. Lo sai che tra poco parleremo ancora di un grande fenomeno televisivo del varietà popolare, ma il maggiore successo della stagione. Altissimi come audience, come tutto. Rieccoci insieme, io ve l'ho detto che avremmo parlato di un altro grande varietà della televisione italiana, anzi io direi del varietà con la V maiuscola della stagione. Finalmente un ospite da 25% di share. Che vette hanno raggiunto? Delle fette incredibili, tanto che sono state aggiunte delle puntate, è stato allungato, ci terrà compagnia ancora più a lungo, una trasmissione che a me tiene inchiodata al telescopio. Schermo, io lo adoro, tale e quale show. Ma quanto è bello tale e quale show! Bellissimo. Mi piace tantissimo. Il primo dei divertimenti, no? Travestirsi. Certo, il primo dei divertimenti. Poi sono bravi davvero, però c'è uno che è più bravo di tutti. No, vabbè, no, sono tutti bravi, vabbè. Però uno. Lo sanno tutti di chi stiamo parlando. Lo sanno tutti. Allora, io. Anzi, facciamo una cosa, facciamo subito sentire. Vediamo un pezzettino di audio, perché tanto tutti avranno già capito chi è la vera star di tale quale show. Give me five, boy. Kisses of the coach. All together with me! Yeah! Oh! Give it all to you in the darkness. So much I wanna do. Ma sono i Kiss? Ma saranno sono i Kiss loro, veri? Sono loro, anche non vedendoli ho dubbi. Anche vedendoli sono loro? Ma no, non è vero, non sono loro. È Gabriele Cirilli. Buonasera Gabriele. Buonasera, che bello. Penso la gente si sta chiedendo, ma chi so? So the coach. Senti Gabriele, ma tu con questa esibizione sei finito, sì, addirittura sul sito dei Kiss. Bellissimo. Cioè, planetario ovviamente il successo di questa esibizione. È veramente un grande onore, perché poi Gene Simmons mi hanno detto che ha twittato facendo dei complimenti e poi ha autorizzato questa interpretazione del loro sito. Guarda, veramente Carlo e Carlo siamo felicissimi, perché poi è tutto grazie a Carlo. Carlo Conti è stato lui a farmi fare questa convincermi, fallo, ti guarda e vedrai, fallo. Ma infatti mi hanno detto che è Carlo Conti l'ideatore, l'anima di tutti gli abbinamenti, è lui che se li inventa. Assolutamente un grande, e io sono contento di essere, io dico sempre, lui è il dente, io la cago. S- Senti, poi peraltro Gabriele, quest'anno ne hai fatti tanti e vi siete inventati questo sistema degli effetti speciali. Non fai, in questo caso hai fatto Gene Simmons, però a volte hai fatto gli interi Beatles, tutti e quattro. Sì, è un lavorone che ti prende tutta la settimana, immagino. Allora, è veramente stancante, però io, siccome mi diverto moltissimo, lo faccio veramente, veramente con molta passione e molto volentieri. E poi è bello perché la gente per strada ti dà un calore particolare, nel senso ha capito veramente le mie qualità. Mentre prima mi riconosceva per sì, Tatiana, tanti personaggi, adesso ha capito che sono un po' più, ho un angolo un po' più aperto, a 360 gradi, o perlomeno sottondo. Vabbè, tondo sicuro. No, la cosa che si vede è proprio il divertimento, quello che diceva adesso Gabriele. Cioè, quando uno si diverte, sa essere un artista ancora migliore. E tra l'altro travestirsi, camuffarsi, giocare, è il primo, no? Fin da bambini, io addirittura da vescovo mi travestivo, tanto mi piaceva cambiare l'idea. Questo è il segreto, pensi? Il problema è che io mi travesto ancora a questa età. Ma giusto. No, scherzo, però pure io credo che sia così. Io quando ero bambino, no, guardavo la televisione e c'era un grande come Alighiero Noschese, che lui è insuperabile e inavvicinabile, però ecco, mi dava delle emozioni. Quindi spero che in queste cose che io faccio veramente in modo molto, non come lui, molto improprio, spero di dare le stesse emozioni a chi sta a casa. Ma un'anticipazione, qualcuno che stai studiando? Allora, c'è un'idea molto bella, però ecco, non posso dare un'anticipazione vera e propria, però si tratta di un tenore, di un tenore insieme però a un cantante pop. Ecco, non facciamo nomi, proviamo a immaginarci. Io però vorrei fare anche un passetto indietro, Gabriele, perché tu sei diventato famoso, ma davvero in tutto il mondo, con un video che nella sola versione ufficiale, perché poi è stato uploadato in mille modi, ha oltre 3 milioni e quasi 4 milioni di visualizzazioni. Io vorrei mostrarne alla radio un frammento ai nostri ascoltatori. E lui, l'uomo del momento, Psy con Gangnam Style! Oppa Gangnam Style! Gangnam Style! Nacce in danza, roaming in gioco in goccia, e copia arancani, io ieri all'ampio Gabriele, quello è stato l'inizio di tutto, l'inizio della follia, cioè lì è proprio, sei diventato un fenomeno planetario in rete. Io, cosa che mi ha stupito, che non è che solo si tratta di contatti, ma visualizzazioni vere, cioè, e quella è la cosa strabiliante, perché sai, il contatto poi anche, e poi te ne vai, invece proprio tutta la visualizzazione è una cosa strepitosa, ed è stato un record, perché noi abbiamo portato il web in TV, siamo stati i primi, grazie sempre al mitico evviva Carlo Conti. Tra l'altro tu hai i tuoi fan hanno un hashtag tutto per loro su Twitter, beh, il tuo account è Gab Cirilli, sono i Gabribaldini. Hashtag Gabribaldini, è bellissimo. Bello, sì, un trascinatore di risate, di allegria, perché non è bisogno sorridere, perché è tanto lo stesso, e quindi è meglio ridere che arrabbiarsi, bisogna ridere perché tanto è lo stesso, e la risata porta un'energia particolare, e quindi noi dobbiamo assolutamente ridere e dobbiamo portare il sorriso nel mondo, non è che vorrei fare, e quindi io voglio trascinare tutti i miei Gabribaldini verso la risata. Senti, siccome il teatro è sempre da sostenere, io voglio anche fare proprio uno spot radiofonico. Sì, il teatro proprio, c'è anche dire che tutti dicono che il Varietà è morto, grande merito di Rai 1, Carlo Conti. Grande merito, no? Con cioè, alla grande si può fare, si può tornare a fare con risultati anche, come posso dire, di stile, no? E di audience insieme. Risultati eccellenti, perché poi vedi, è una cosa molto semplice, un format molto semplice fatto pulito, esatto, da persone professioniste, ma tutti, dai truccatori ai costumisti ai parrucchieri a gente che lavora, gli autori, Carlo è una persona, cioè veramente un grande spettacolo. Mai neanche una lite, tutti tranquilli, tutti sereni, che meraviglia. Però sì, tu sì, ci no, siamo, siamo una grande famiglia. No, io tu volevo... ci volevi portare sul teatro. No, volevo portarvi sì. sul teatro perché anche qua c'è l'hashtag lui e lei. È perché Gabriele sì. Cirilli mica è uno che, no, certo. Che si improvvisa da su Gigi Twitter. Proietti. No, poi Gabriele allora. Cirilli, su, la foto profilo di Twitter di Gabriele Cirilli è lui, la mostro alla radio, che con il suo account, un cartello col suo account, è uno organizzato. Allora, che cosa succede sì. a teatro? Diciamo che si sta realizzando un po' tutto insieme, uno spettacolo che da tanto che ci lavoro si è finalmente ecco, realizzato, si è stato costruito al Teatro Brancaccio di Roma al 17 novembre e la mia, insomma, il mio onore è avere la regia di Federico Moccia con due ragazze attrici bravissime come Roberta Giarrusso e Federica Nargi e si ride tanto e noi sezioniamo la coppia. C'è la tipica storia del 46enne che da 20 anni con la moglie viene messo in crisi il rapporto dopo una 20enne e non dico oltre. Ah, vabbè, queste storie l'ho già sentita sì. da qualche parte. Senti, ma sì, ci ma chiedevamo... non finale. No, no, no, no, no, no. Ci chiedevamo prima, ma tu eri diventato famoso con sì. chi è Tatiana? Come ci si libera? Tatiana? Allora, io non mi voglio liberare da Tatiana assolutamente, oh. perché è un personaggio vero di Borgata, è un personaggio che parla di realtà quella vera, cioè quella della insomma la vita quotidiana, non quella che vedono in televisione, ma quella proprio della Borgata. E mi ha dato tanto successo, è chiaro che il tormentone ha dovuto, no, uscire fuori per avere successo il personaggio. Però poi, se ci fate caso, dietro questo personaggio di Borgata che è Crusca con 2K, ci sta una vera e propria storia di amicizie, di affetti, di sfortune, fortune, fidanzati che vanno, vengono. Quindi io sono molto contento se non va mai via da me, Tatiana. Non deve andare, però ti regalo una battuta bella, questa è bella. Tatiana è l'amica mia, quella grassa, ma talmente grassa, che se si mette a giocare con l'Hula Hoop, la gente fa guarda stasera come si vede bene Saturno. Sì, no, no, tengo, non abbandonarla. No, una Tatiana al giorno. Porta sì, il medico di corno, esatto. Visto che noi ci occupiamo tanto e soprattutto di social TV, quindi insomma tutti sì. quelli che guardano Tale Quale Show stanno lì a twittare e a sì. commentare su Facebook, tu poi li guardi i commenti in rete, no, vai io a guardo, controllare? Io li guardo, però non mi arrabbio più di tanto, perché chiaramente in rete c'è tanta gente, tanti, e siccome c'è l'anonimato, uno si può permettere di dire quello che vuole, ed è anche giusto che possa criticare, è anche giusto. Io ho molte critiche che ho sentito, che ho letto su internet, sono state molto importanti per me, perché poi ho cambiato strada in alcune cose, in alcuni momenti. Poi ci sono però talmente tanti commenti positivi che mi lasciano dimenticare quei pochissimi negativi che ci sono. Anche quando hanno detto, però questo è carino, che i tuoi sì. Beatles sembravano le quattro mamme dei quattro Beatles, questo è sì. carino. Troppo bello, questo me l'ha sossegnata perché era bellissimo, era bello, troppo bello. E poi l'importante è comunque sempre fare tutto con divertimento, mai prendersi sul serio, quindi benissimo queste battute, ma altre ancora peggiori, però mi fanno ridere. Allora, noi aspettiamo le prossime imitazioni di Gabriele Cirilli. Io sempre fa numero uno. Col 5 non possiamo dire, però. No. Intanto lo seguiamo. Apriamo su l'indagine. Twitter, @GabCirilli, e andiamo a vederlo a teatro se siamo a Roma. Io vi ringrazio. Forza, vi invito, teatro. Chiaro che vi invito tutti, tutta l'Italia, al Teatro Brancaccio. Che bene. Meraviglia. Grazie, Gabriele. A presto. Grazie, grazie. Ciao. A voi. Vi voglio bene. Con l'hashtag TVB. Grazie, Gabriele. Noi, Daniele, ci ritroviamo. Saluti a Tatiana. Ancora insieme con il nostro RadioTube, con Daniele Bellasio, @ di Bellasio, con Marta Cagnola, @ Marta Cagnola, per chi usasse Twitter, visto che ci si può sempre trovare lì sul social network, c'è anche l'hashtag RadioTube. Ci siamo divertiti un po' nella prima mezz'ora molto di RadioTube. Ci siamo divertiti, abbiamo toccato vette di share, di audience, ma abbiamo toccato picchi del 32%. Io parlavo solo del 25%, ma sì, siamo del molto 25, 26 come media, ma abbiamo toccato picchi del 32%, mica poco. Però adesso parliamo di un personaggio che dal punto di vista delle elezioni ha beccato un risultato elettorale ben maggiore del 35%, insomma risultati pazzeschi, attorno al 70%, e soprattutto è diventato trend topic su Twitter in Italia. Parliamo di Bill de Blasio. Bill de Blasio è il nuovo sindaco di New York, ma improvvisamente, come ha notato Nonfup, cioè Filippo Sensi su Twitter, improvvisamente ha addirittura superato la Cancellieri questa settimana, in un giorno in particolare, su Twitter in Italia. Questo perché? Perché è un fenomeno mondiale, sarà pure soltanto italo-americano, sarà pure soltanto, e dico soltanto ovviamente per ridere, il sindaco di New York, ma è una star social, i suoi spot ovunque. E abbiamo deciso di parlarne con un ospite molto interessante, che è Gianluca Galletto. Gianluca Galletto fa parte del comitato finanziario di Bill de Blasio, è un italiano, vive a New York, lavora nel mondo della finanza e ha una lunga esperienza di campagne elettorali. Sul suo account Twitter, @ggalletto, potete anche vedere le foto, c'è una sua foto con Bill de Blasio ed Enrico Letta. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Anche allora, voi buonasera. Buonasera, sì, buonasera. Stiamo andando oltreoceano. Tu già ti sentivi a Manhattan, sei pronto a chiedere asilo politico? Però siccome devo fare il bravo conduttore a Gianluca, ti direi che prima dobbiamo vedere qualcosa di questo de Blasio prima di parlarne. In realtà ascoltiamo insieme qualche frammento di audio. L'audio non è brillantissimo perché, come spesso accade, guardare un video è sicuramente più chiaro dell'ascoltare un audio, soprattutto se in inglese. Chi è stato il vero segreto del successo di de Blasio? Diceva anche Andreotti. Allora, noi l'abbiamo detto, il parrucchino di Sandro Maier. Tale quale ci si traveste, ci si mette la parrucca. I capelli sono importantissimi. Ma scherzi a parte, sono importanti davvero? Sono importanti i barbieri? Assolutamente. E Bill de Blasio ha avuto un grande endorsement. Guardiamo insieme alla radio questo video. Guardiamone un estratto insieme. My name is Alberto Amore. From Shaka, Sicily. Hello, my name is Rochelle Braithwaite and I'm a natural stylist. How do I know Charlene? Allora, ve lo devo spiegare e tradurre perché non sempre questi video si vedono bene alla radio. Il primo era Alberto Amore di Sciacca, barbiere, ovviamente americanissimo, però con un aspetto italiano e con una capacità molto italiana di gesticolare, cosa che anch'io faccio molto. La seconda era una hairstylist. Quale caratteristica hanno? Beh, loro tagliano i capelli alla famiglia De Blasio e sostengono la famiglia De Blasio. Inizierei a chiedere invece a Gianluca Galletto, allora, come ti spieghi questo successo dal punto di vista social del sindaco di New York? Non so bene cosa sia fuori dal resto del mondo, però ci sono due aspetti. Chiaramente New York ha un po' come la capitale del mondo, diciamo così, quindi chiaramente c'è un'attenzione globale. Però l'Italia ha il fenomeno, diciamo, che sorprende anche un po' anche me, perché è chiaro che De Blasio è di origine italiana, quindi questa cosa fa saltare un po' tutti gli italiani, è un po' una forma di orgoglio. Però l'impressione in Italia sia anche un po' un innamoramento a volte quasi da teenager verso le cose che accadono in America o a New York. Tu che hai, insomma, raccontaci appunto qualcosa, tu che hai vissuto la campagna elettorale da vicino, anche a lui che lo conosci, come tanti altri esponenti del Partito Democratico peraltro in America, raccontaci qualcosa. De Blasio, al contrario della maggior parte, cioè tutti i politici devono essere affabili, devono essere, diciamo, avvicinabili. Però tendenzialmente non hanno questa forma di autenticità, di empatia che lui è in grado di stabilire. Ci tiene all'Italia le sue origini, insomma, voi lo sapete che De Blasio è il cognome della madre, non è il cognome del padre, quindi il fatto è stata una scelta molto forte quella di cambiare cognome e quindi di tenere la sua identità italiana. E quindi c'è questo aspetto umano molto importante. Lui è uno con cui appunto c'è un'autenticità che non ho riscontrato in nessun politico, non ho avuto a che fare con tanti italiani, no, sono impegnato anche nella politica italiana. Mentre la cosa divertente è stata questa: nel comitato finanziario 3 anni fa, non credo in 15 o 6, insomma, quelli che a un certo punto dopo le primarie, dopo la primaria, la prima riunione della primaria c'erano 100 persone. Infatti lui è entrato dentro, ha detto chiaramente in inglese, oh madonna, che cambiamento, perché chiaramente c'è stata una rincorsa al vincitore e poi c'è anche, chiaramente molti che supportavano anche i democratici poi non avevano più il problema di dividersi su di lui. C'è anche... prego Gianluca. L'ultima cosa, c'è stata una campagna che ha preso, diciamo, all'inizio dura e complicata, perché la visibilità era anche molto difficile da ottenere da parte sua, perché c'era una favorita che era la presidente del Consiglio Comunale. Infatti è altissimo, è un italiano altissimo. E poi però c'è stato una crescita notevole in estate. Lui ha mantenuto la cosa diversa, questa la campagna fa il punto su, mai sempre su tutto il suo messaggio, su tutti i cardinali, diciamo, della sua campagna, non ha mai ondivagato. Questo è stato importante. Poi c'è stata l'implosione della campagna di Anthony Weiner, devo ricordare quello delle foto osè. È un'altra celebrità anche in Italia per i social, è diventato famosissimo, anche perché quello... Ti sei risvegliata improvvisamente. Ma quello quanto mi è piaciuto, ma perché mi sono divertita, perché era una storia irresistibile, anche per gli italiani, cioè, insomma, anche perché le cose un po' pruriginose, adesso, cioè Gianluca, poi lo sai che noi da questa parte dell'oceano... Cioè, ci divertono molto, lo sai, no? E quindi sul sexting ci siamo scaldati tutti. È stata veramente bizzarra, però poi alla fine è riuscita questa cosa addirittura a luglio. Per cui grossi torettori sono passati a Bill. Ma Bill ha vinto in tutte le, cioè come si vuole segmentare il mercato, l'elettorato che ha votato per lui. In qualsivoglia modo lo si faccia, vince sempre. Ha vinto coi bianchi, con le donne, chiaramente magari le percentuali cambiano, con quelli di Manhattan, con quelli di fuori Manhattan, di Brooklyn, eccetera, che siano neri, latini, i gay, cioè deve, anche le primarie, insomma, è stata questa cosa. Quindi è riuscito a creare una coalizione di gruppi vastissima. Mentre gli altri avevano, che ne so, Bill Thompson, magari era più legato alla zona del Bronx, e non ha preso il voto nero, l'ha preso di più Blasio. Weiner aveva un certo tipo di liberal, no, di sinistra, un po' intellettuale, no. Lui no, è andato un po' across the board, come so dire. Io vorrei invece sollecitarti anche su un altro aspetto che ha incuriosito molto gli italiani e molto i social. Ascolterei un brevissimo estratto da un altro video che vorrei commentare insieme a te, Gianluca, eccolo qui. I want to tell you a little bit about Bill de Blasio. He's the only Democrat with the guts to really break from the Bloomberg years. The only one who will raise taxes on the rich to fund early childhood and after school programs. He's got the boldest plan to build affordable housing. Allora, è la voce di Dante De Blasio. Noi siamo impazziti per Dante e Chiara. Un po' questi nomi. Poi i capelli. E poi i capelli, ancora una volta, i capelli afro di Dante e queste strane acconciature di Chiara con i fiori in testa, con le rose. Sono irresistibili. Noi qui siamo impazziti. Beh, Dante, quel capello così si chiama afro, quello è un afro, la abbreviazione fro, lo di afro, che in quelle dimensioni in effetti non se ne vedevano dal 1980. Forse. Ma guarda, perché non mi conosci dal vivo, ma se io mi impegno posso arrivarci anch'io. Okay. Mettiamo una foto su Twitter di Marta Cagnola, no, versione Dante De Blasio. Questa è stata una cosa straordinaria perché ha chiaramente... Insomma, c'è qualcosa di cinematografico nella famiglia De Blasio, sì, no Gianluca? Quel video è stato un po' un game changer perché è stato visto da 100.000 persone su YouTube prima ancora di andare in TV. È stata la prima pubblicità importante che ha fatto. Quella è stata ideata da Harold Dix, che è un ex strettissimo collaboratore dei Clinton, uno stratega bravissimo. E all'inizio non se ne erano accorti di quanto dell'impatto che poteva avere questa cosa, l'hanno capito dopo averlo girato. This is very strong material, hanno detto. E lì la cosa interessante è che lui fa vedere un figlio, lui che è bianco, la moglie è nera, quindi una famiglia multiraziale, multiculturale che rappresenta New York di oggi. Qua a New York i bianchi siamo minoranza ormai, siamo meno del 50%. E poi il fatto che lui non lasci crescere i figli senza imporli, non so, di come deve fare i capelli, come anche la figlia, un orecchino, credo, al sopracciglio, oltre che all'orecchio e al naso. Quindi c'è questo aspetto di essere molto liberal nei confronti della famiglia. E, no, è stato veramente divertente, anche interessante, e ha raccolto, lui ha creato un'empatia fortissima con una grandissima fetta di elettorato. E anche in Italia siamo diventati tutti hashtag Team De Blasio, perché tutti appassionati. Io devo ringraziare Gianluca, noi lo staneremo ancora, lo disturberemo ancora, Daniele. Sì, assolutamente, anche perché secondo me resterà De Blasio come fenomeno. Anche secondo me, se ne parlerà, è solo iniziata Gianluca. Va bene. Grazie, allora a presto a Gianluca. Grazie Galletto. A voi. Saluti a New York. Ah, che meraviglia, ci siamo sentiti un po' a Manhattan. Rieccoci insieme per gli ultimi minuti del nostro RadioTube di questo fine settimana, eh sì. Caro Daniele. Mi hai preso in giro in questi minuti, mi hai fatto ma sì, fare perché, una brutta no, perché figuraccia. Ti sei risvegliata lì sulla questione dei pettorali, no? Ma no, ma è perché Winner, la Winner, storia perché? Di Winner a me ha divertito molto. Dai, uno che si fa intanto beccare non una volta, ma due, perché manda immagini osè e si fa chiamare soprattutto Carlos Danger. I pettorali. Immagini osè, perché sennò sembra che stiamo parlando di chissà che cosa. E poi fa parte della nostra trasmissione, i video virali. Certo, i video virali e anche le notizie virali di un politico. Qualcosina si intuiva, diciamo. Insomma, che si è giocato la poltrona mandando immagini osè a signorine che poi due volte beccato, fattosi perdonare dalla moglie, mea culpa pubblico e poi aridaie. In attesa di vedere Marta Cagnola in versione Dante De Blasio, cioè coi capelli afro. In versione Winner, no, in versione certo afro. No, Winner. Vabbè, che tale, abbiamo parlato di tale quale all'inizio, ma non così tanto. Allora, torniamo alle origini della nostra trasmissione. Parliamo di liti e parliamo di politica. Mm-hmm. È stato addirittura scomodato sociologicamente il cambio generazionale per questa lite fredda, perché non è sbottata davanti a tutti. Ovviamente parliamo di Adriano Galliani. Conosco. E Barbara Berlusconi. Aia! C'è in palio la guida del Milan, la guida manageriale del Milan. Barbara ha sentito il bisogno di dire che forse c'è qualcosa da cambiare nella struttura della società. E quindi i giornalisti hanno inseguito Galliani e noi abbiamo il video di Galliani. E noi abbiamo il video di Galliani. Tutti gli chiedevano, ma cosa ne sarà di questo Milan? Sentiamo come ha risposto Galliani. Un pochino più lungo. Ha sentito il presidente Berlusconi, ci conferma la fiducia totale ad Allegri? Ma assolutamente sì, certo, assolutamente. È più preoccupato o arrabbiato dal momento di Balotelli? Balotelli, anche qui vorrei vedere un attimo di calma. Senza Balotelli noi non saremmo mai andati in Champions League. Dottore, hai parlato con Berlusconi? Vuol dire, anche dopo aver letto le dichiarazioni di Barbara? Certamente ho parlato con il Presidente ieri sera, ma non faccio commenti su questo, stavo parlando di Balotelli. Stavamo parlando di Balotelli. Ma perché no? Lo dice all'inglese? Balotelli. Sì, lo dice strano Balotelli. Balotelli. Si è parlato però di Barbara questa settimana? Sì, assolutamente. Perché di tutti i figli di Berlusconi si è parlato. Ah giusto, settimana. C'è quella cosa lì del libro di Vespa, giusto? Sì, l'Italia è l'unico paese in cui, oggi ne parlavo con un'amica, l'unico paese in cui si rischiano le crisi di governo parlando di un libro che in realtà è stato scritto mesi fa, però ne vengono fuori poco a poco queste col contagocce. Ma questo è il virale, eh? È la rete, sono i danni. E questa settimana fa anche la rete danni. È impazzita. Anche direttori di testa, ex direttore, mi viene in mente Massimo Bordin, ha scritto su Twitter, ovviamente ex direttore di Radio Radicale, ha scritto su Twitter: vedo una bimba come ebrea sotto i nazisti allo stadio di fianco Adriano Galliani a vedere la partita. Insomma, ci riferiamo ovviamente a quella dichiarazione infelice del presidente Berlusconi, diciamo, che infelice, ha detto sì. I miei figli si sentono come gli ebrei sotto il nazismo. Molto infelice. Parecchio infelice. Vorrei tornare però all'inizio della stagione televisiva, perché l'inizio della stagione televisiva era stato caratterizzato proprio da Barbara Berlusconi. Brava. Io farei proprio, come abbiamo si suol dire, un passo indietro. Abbiamo le prove. Questo è l'anno di Barbara, nel bene e nel male. Sentiamo Barbara cosa aveva raccontato a settembre a Ballarò. Sono convinta che la storia di mio padre sia una storia politica e imprenditoriale, non di certo criminale. È questo quello che penso. Mio padre ritiene di aver fatto tanto per l'Italia e non vuole essere liquidato come un evasore, e per questo non si dà pace, e io lo capisco. Però ci sono delle sentenze, delle situazioni. Guardi, gli errori li facciamo tutti, ma negli ultimi 20 anni nel panorama politico europeo non esiste leader contro il quale si sia fatto tanto per impedirgli di governare, nonostante il consenso. Io penso che alcune delle forze politiche siano in totale confusione in questo momento. E se ritengono che Silvio Berlusconi sia un delinquente, per quale motivo hanno deciso di fare con lui gli ultimi due governi? Barbarella è brava, Barbarella è brava, un po' preparata, però non male. No, però Barbarella è brava, certo che alla fine l'hashtag paragoni alla Silvio, alla fine era andato in cima alle classifiche. Ma vogliamo in cima alla classifica dei trending topic. Vogliamo concludere però con un sorriso, dai, perché allora abbiamo parlato di Busi numero uno, ospite eterno, lo vogliamo eterno sempre in qualsiasi talk show, sempre. Corifei o corifei? Resta questo dilemma. Adesso lo controllo per bene. Abbiamo parlato di Anna Oxa e Anna Oxa, non Giovanna d'Arco. Dobbiamo ricordarcelo sempre. Abbiamo avuto con noi Gabriele Cirilli, leggendario. Niente poco di meno che. Abbiamo parlato di Bill de Blasio, un'incursione tra calcio e politica. Concludiamo con un sorriso. Chi è stato il più commentato in rete questa settimana? L'abbiamo detto, c'era una gara in cima ai trending topic. Alla fine ha vinto lei, però quindi anche lui ha vinto, il ministro Cancellieri. Essi coloro, entrambi, in due. E noi abbiamo il ministro Cancellieri, però fatto da il tuo mitico. Io lo so che tu ogni volta dici che piace solo a me, però la verità è che piace anche a te, perché ogni volta ce lo riascoltiamo insieme. Andiamo a sentire cosa ha fatto questa settimana. Te lo regalo io, dai. Grazie a Ballarò questa settimana, Maurizio Crozza. Pronto? Cosa? Mi dispiace tanto, è un mondo ingiusto, lo so, ma io ne sono vicino, mi dispiace tantissimo, conti pure su di me. Chi era? E che ne so, era uno che ha sbagliato numero. Ah. Ma riprovate da casa. Pronto? Sì, lo so, è giusto, lo cambio, guardi, per lei lo cambio, contate pure su di me, è un mondo ingiusto. Chi era? La Vodafone. Ah, e cambia gestore? No, ma che? Io non cambio niente, io mi commuovo e basta. Squillate. Pronto? Chi le ha dato questo numero? Non mi chiami mai più, capito? Io sono un ministro, capito? Non è che mi possono chiamare cani e porci. Ma guarda tu questo qui. Chi era? Gasparri. Maradona. Gasparri. E Gasparri era nel pubblico. Era lì, l'ha presa benissimo. L'ha presa bene. Ma sì, Gasparri, ogni comico passa di lì, gli dà una sberla. È il più preso di mira di tutti i tempi. Forse in parte anche ogni tanto se lo merita. Anche questa settimana via Twitter, perché anche via Mamma Twitter. Mamma mia, ma poi litiga. Ha litigato lui stesso. Sì, lui è attivissimo. Ha reagito. Sì, risponde. Mamma mia. Povero Gasparri. Ma in questo caso è stato veramente bravo. Allora, diamo la risposta. E niente. Ah, come si dice? L'hai si trovata? Dice, ma sei la mia secchiona preferita. Non solo me l'ha detto Pietro La Corte in regia, che lo sapeva perfettamente, ma ho controllato sul DOP, sul dizionario d'ortografia e pronuncia, che è la Bibbia. Bible, la Bibbia, non si scappa. Niente, corifeo. Che dobbiamo dire? Aldo Busi ha sbagliato. Però se lo dice Aldo Busi, dai, accettiamo anche corifeo. Accettiamo tutto, perché come lo dice? Da Aldo Busi accettiamo tutto. Accettiamo anche il fatto che abbiamo concluso il tempo questa per il nostro sesta puntata del nostro hashtag RadioTube. Però tanto per tutta la settimana ci possono trovare sempre su Twitter, siamo sempre lì. Chiocciola Di Bellasio, chiocciola Marta Cagnola, commentiamo insieme la televisione, ci divertiamo anche a essere un po' cattivelli con tutti, ma è giusto così. È finito il tempo a nostra disposizione. Ciao, ci Marta. Ritroviamo la prossima settimana. Chi salutiamo? Sandro Maier ancora? E anche Tatiana. Salutiamo Sandro Maier e anche Tatiana. Chi è Tatiana per questa settimana? Ci ritroviamo la prossima. Abbracci.